Salve a tutti gli ascoltatori qui a Radio Big World, io sono Fabiola, questa è la puntata numero 15 di A tavola con Fabiola, io sono Fabiola. La ricetta di oggi è l'insalata di Java. Ingredienti per 4 persone: polpa di aragosta bollita, 400 g, gamberetti lessati e sgusciati, 400 g, 12 cozze grosse, 2 scalogni, 3 pomodori pelati, 2 cipolle, 2 cucchiai di senape e di aceto, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cespo di lattuga bianca, sale e pepe quanto basta. Preparazione: tagliate l'aragosta a tocchetti e mettetela con i gamberetti in una terrina. Pulite bene le cozze e sistematele in padella. Fatene aprire i gusci sul fuoco vivace. Togliete i molluschi e metteteli nella terrina con gli scalogni, le cipolle e i pomodori. Stemperate in una scodella la senape con l'olio, con 2 cucchiai di acqua, l'aceto, il sale e il pepe. Sbattete il tutto con una forchetta e versate la salsa ottenuta sulla terrina. Rigirate delicatamente e lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti. Lavate la lattuga, tagliatela a ristarelle e disponete nelle coppette. Aggiungete il composto di pesce sopra ad ogni lattuga che è nelle coppette. Buon appetito! I vini consigliati per questa ricetta sono il Riesling del Friuli, servito a 10 gradi, e la Vernaccia di San Gimignano, servita a 10 gradi. Questa era Tavola con Fabiola su Radio Big World. Alla prossima ricetta da Fabiola!